professor Pietro Coda. Che insegna alla Pontificia Università Lateranense di Roma e ha molte pubblicazioni proprio sul tema che ci presenterà, pubblicazioni di grande rilievo. Io cito solo alcune per non appunto dilungare troppo questa mia introduzione, questa mia presentazione. Evento Pasquale, Trinità e Storia, il negativo e la Trinità, l'Agape come grazia e libertà. Queste sono alcune sostanziali opere che proprio riguardano il tema specifico che adesso vi presenterà. E mi piace anche ricordare che il professor Coda è un focolarino, ricordarlo perché qui siamo nel Trentino, dove Chiara Lubich ha iniziato questo movimento. Chiara Lubich, la quale fu nominata anche dal Papa l'altro giorno, quando venne qui in visita, e la quale proprio nell'inizio ebbe contatti anche, dire, fra gli altri sacerdoti, fu assistita da due rosminiani, da padre Pagani e da padre Clemente Revola, che si radunavano anche qui a Rovereto, nella casa natale di Antonio Rosmini. Quindi mi piace ricordarlo e a lei la parola, grazie. Grazie padre dell'introduzione, grazie al comitato scientifico di questo invito e di questa possibilità, grazie a voi che ascoltate. E devo dire che accostarsi a Rosmini teologo e teologo della Trinità, muovendo dal contesto della contemporanea riflessione trinitaria, e questo è il tema che mi è stato assegnato, non può non provocare in un dilettante di studi rosminiani, quale io sono e resto, di fronte a tanti illustri esperti, un gradito e costruttivo sentimento di stupore, perché devo confessare che non conoscevo la riflessione trinitaria del Rosmini e tuttora ne conosco, penso, una minima parte. Un gradito e costruttivo sentimento di stupore sia nel constatarne, una volta ancora, anche in questo campo, che come dico non conoscevo per nulla, devo confessare. Questo penso è un fatto che mostra come la formazione teologica abbia una grossa lacuna, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista sistematico. Ecco, nel constatarne una volta ancora, anche in questo campo, la singolare robustezza speculativa e non di rado, come cercherò di mostrare, la genialità in prospettiva trinitaria, sia nell'ammirare le note caratteristiche di un pensare teologico allo stesso tempo rigorosamente tradizionale nel senso alto della parola e originalmente moderno, sia infine nello scoprire l'attualità urgente di alcune linee di fondo della sua complessiva costruzione sistematica in rapporto al tema trinitario e insieme della sua proposta di soluzione di alcuni fondamentali nodi concettuali che affiorano nel dibattito contemporaneo sul mistero della Trinità. Tradizionale la prospettiva trinitaria di Rosmini lo è soprattutto a motivo del suo convinto innestarsi sul robusto tronco della dogmatica trinitaria cattolica a partire dai concili dei primi secoli per giungere attraverso la duplice e persino dialettica mediazione dei padri greci, prima fra tutti i cappadoci e latini, Ilario di Poitiers e Agostino, sono soprattutto questi due teologi trinitari che Rosmini cita, i due grandi de trinitate di Ilario di Poitiers e di Agostino, alla sintesi di Tommaso d'Aquino. Moderna perché il suo approccio tiene conto, con fine accortezza epistemologica, ma quasi direi più per innata, con naturalità ermeneutica, di ciò che di positivo e irrinunciabile è rappresentato dalla svolta dei tempi nuovi verso il soggetto. Attuale, infine, ed è l'aspetto che intendo mettere qui maggiormente a fuoco in una prospettiva sincronica e sistematica, essendo impossibile tematizzare adeguatamente gli altri due temi che pure sarebbero importanti e meritevoli di indagine, dicevo attuale a motivo paradossalmente della sua evidente inattualità, che significa però a mio parere, come cercherò di mostrare, acuto precorrimento del futuro. Questo per quanto riguarda proprio la sistematica trinitaria. In realtà, se dovessi sintetizzare, certo con una buona dose di semplificazione e dati per scontati, i frutti dello straordinario sforzo di ripensamento contemporaneo da parte della teologia del mistero trinitario e di ricentramento della teologia stessa attorno ad esso, di cui è testimone soprattutto il nostro secolo, se dovessi sintetizzare i punti essenziali che più o meno consapevolmente attendono d'essere ancora affrontati, non potrei non concluderne che o la teologia trinitaria di Rosmini è definitivamente superata, perché si pone in una posizione di evidente inattualità, o al contrario, ed è questo quello che io penso, essa invita robustamente a pensare con più rigore e con più coraggio alcuni presupposti e alcune linee di tendenza che oggi, paradossalmente, sembrano dare per scontato un endemico indebolimento della speculazione trinitaria dopo che c'è stato un grande rinnovamento della teologia trinitaria nel nostro secolo. E mi riferisco, sul versante più filosofico, concernente l'infrastruttura ontologica del pensare credente, alla critica dell'ontoteologia, che indiscriminatamente affermata, finisce col delegittimare la grande riflessione dogmatica dei padri e degli scolastici. Sul versante più teologico ho invece presente quella tendenza all'agnosticismo metodologico e in fin dei conti ontologico nei confronti della Trinità immanente, del mistero della Trinità di Dio in sé, che rischia alla fine non solo di privare di ogni plausibilità la fede trinitaria, ma anche di svuotare insensibilmente di significato il proprium originale del cristianesimo. E infine, su di un terreno di confine, o meglio di incontro, in cui più che mai oggi filosofia e teologia sono chiamate a dialogare costruttivamente e in un movimento di reciproca trascendenza, penso a quelle larvate, anche se senza dubbio in buona fede, ma non per questo meno deboli, quando non perniciose, forme di personalismo trinitario che per carenza di approfondimento ontologico dell'unità dell'essere di Dio possono insensibilmente scivolare nel triteismo. È ovvio, e sono ben lontano dal volerlo misconoscere, che ognuna di queste tendenze nasce dall'aver messo in rilievo importanti istanze per un ripensamento del mistero trinitario, ma esse manifestano altresì un deficit che a mio avviso è urgente colmare. E il pensiero di Rosmini, il pensiero trinitario di Rosmini, in questo compito, mi sembra possa giocare una significativa carta di attualità. Questo è quello che ho definito l'attualità inattuale di Rosmini, e in certo modo il precorrimento del futuro. Prima di addentrarmi in una breve disamina dell'originale e oggi provocatoria speculazione trinitaria di Rosmini, mi attardo un istante sul tema senza dubbio di grande momento dello statuto epistemologico della conoscenza della Trinità. Su questo tema, nella globalità del pensiero rosminiano, sono già stati dati degli ottimi contributi, quindi mi soffermo solamente sul tema specificamente trinitario. Per il Roveretano sono entrambe e conseguentemente vere ed essenziali le due seguenti affermazioni, che cito da lui. Da un lato, che il principio della cristiana rivelazione nella fede di un Dio uno e trino propriamente consiste. In quanto, spiega Rosmini, il mistero della triade non si sarebbe giammai rinvenuto dall'umana intelligenza se lo stesso Dio non l'avesse rivelato agli uomini positivamente. Dall'altro, e cito sempre Rosmini, che non di meno non solo si può dimostrare col raziocinio la esistenza di Dio, ma ben anche si può conoscere quella di una Trinità in Dio in un modo almeno congetturale, con ragioni positive e dirette, e dimostrativamente con ragioni negative e indirette, in quanto non si potrebbe concepire e intendere Dio con un pensiero filosofico senza renderlo un ente pieno di assurdi, quando si concepisse talmente un ente uno che non fosse un tempo trino nei suoi modi e propriamente nelle persone. Questa Trinità, continua Rosmini, di persone, appare altresì manifestamente necessaria alla mente speculativa per inspiegare com'egli potesse essere la causa del mondo. La prima affermazione di Rosmini sottolinea dunque, molto chiaramente, l'origine rigorosamente rivelata della verità sulla Trinità di Dio. La seconda, la sua intrinseca e decisiva per il retto e fecondo pensare la verità dell'essere, valenza speculativa. Tutto ciò, come noto, costituisce il proprium dell'epistemologia rosminiana circa i rapporti in particolare tra teologia rivelata e teosofia. Ma allo stesso tempo, nel riferimento appunto alla Trinità, ne costituisce il caso serio e la forma principiale e strutturante. Tanto che, mi sembra, si può e si deve riconoscere, sono parole di Rosmini, che questo sublime mistero è il profondo e immobile fondamento su cui si possa innalzare l'edificio non solo della dottrina soprannaturale, la teologia, ma anche della teosofia razionale. Questa relazione tra teologia rivelata e teosofia va collocata inoltre, questo mi pare importante anche sottolinearlo, all'interno di un contesto per Rosmini ancora più vasto. Quello che vede da un lato è come presupposto della teosofia la filosofia regressiva, come lui la definisce, come quella che sulla via della riflessione riconduce la mente a trovare il principio da cui deriva la scienza dell'ente. E dall'altro, questo mi pare anche importante, è come ulteriore esplicitazione della teologia rivelata la teologia mistica, come quella che tematizza, dice Rosmini, la comunicazione con Dio sperimentale. Tutto questo precisa ulteriormente ed evidenzia l'organicità strutturale e la coerenza interiore dell'approccio rosminiano al tema centrale della conoscenza di Dio Trinità e insieme permette di rivelarne l'aderenza all'ampio e graduale spettro dell'esperienza umana. Circa la storia della rivelazione, il Roveretano, nell'antropologia soprannaturale, osservando i gradi che distinguersi possono nella cognizione di Dio, osserva così. Essa, la cognizione di Dio, comincia con la unità di Dio e con gli attributi che appartengono alla divina natura. Perfezionandosi, continua, è necessario che entri in essa altresì la cognizione delle persone che ne diviene il compimento. Citando il De Trinitate di Ilario di Poitiers e riferendosi da un lato ai libri di Mosè, come li definisce Rosmini, e dall'altro soprattutto al Vangelo di Giovanni, egli può dunque affermare che la base del giudaismo è propriamente l'unità di Dio, mentre il mistero della Trinità delle persone è dottrina propria e fondamentale dell'Evangelio. Distingue poi tra rivelazione esteriore ed interiore e afferma che la prima consiste, è una mia parafrasi, oggettivamente negli eventi storici e nelle dottrine manifestate in forma piena e definitiva dal Cristo, e soggettivamente in una fede che Rosmini definisce negativa della Trinità, e cioè costituita di semplici nozioni e concetti, mentre la seconda, cioè la rivelazione interiore, consiste oggettivamente nella immensa azione interiore della Trinità e soggettivamente nel positivo sentimento delle persone divine. Questa interpretazione rosminiana della gradualità e della struttura che potremmo definire gnoseologico-storica del mistero trinitario si mostra in realtà pienamente tradizionale, in quanto evidenzia, con un linguaggio suo proprio, l'intrinseco rapporto che i padri greci dicevano strutturale tra oikonomia e teologia, o quella che Sant'Agostino definisce cognitio rationalis rerum temporalium, id est cognitio Christi hominis, e cognitio intellettualis rerum eternarum, id est cognitio Christi fili dei unigeniti. O se vogliamo venire alla formulazione contemporanea decisiva nella ristrutturazione del Trattato sulla Trinità di Karl Rahner, il rapporto tra Trinità economica e Trinità immanente. Ma in Rosmini c'è un prezioso elemento di originalità già sotto questo profilo epistemologico, mi sembra, che consiste nel mettere in evidenza il fondamento soggettivo nel senso di innestato nell'esperienza fondamentale dell'uomo redento, quello che lui chiama il sentimento, della dottrina che per sé è solo negativa e ideale della distinta e trina sussistenza dell'essere divino. Questa preziosa acquisizione, quanto mai attuale e feconda di possibili sviluppi, è certo ripresa da temi materialmente presenti nella patristica, anche nella scolastica, nel pensiero moderno, ma formalmente, mi sembra, vi è qui un ripensamento speculativo tutto moderno come sensibilità, in sintonia con la mistica dell'esperienza soggettiva della Trinità, del Carmelo riformato. Non per nulla Rosmini, quando parla della Trinità, cita spesso i mistici, Giovanni della Croce, Teresa, eccetera, ma anche della cosiddetta scuola francese di spiritualità, che non per nulla, e questo mi pare sarebbe un filone di approfondimento storico e sistematico, soprattutto da perseguire, non per nulla questa mistica cosiddetta soggettiva del Carmelo riformato, la scuola francese di spiritualità, sono nate in parallelo con la svolta antropologica moderna. Nonché evidentemente c'è qui una sintonia con ciò che in proposito e parallelamente a Rosmini andavano evidenziando nell'Ottocento la scuola di Tubinga, soprattutto Müller e Newman. Poste queste necessarie sintetiche premesse epistemologiche, veniamo alla dottrina propriamente, alla speculazione propriamente trinitaria di Rosmini. Essa evidentemente ha il suo luogo proprio nella teologia rivelata ed è trattata più volte, anche se solo frammentariamente, da Rosmini sotto questa precisa formalità epistemologica. Basti ricordare soprattutto l'introduzione al Vangelo di Giovanni, ma anche appunto l'antropologia soprannaturale. Ma allo stesso tempo dispiega, e forse in forma ancora più rigorosa e pregnante, e senza dubbio più sistematica, la sua vis e la sua fecondità speculativa nella teosofia. Ecco, dalle pagine soprattutto della teosofia mi pare si staglia nettissima, a proposito della dottrina trinitaria, la genialità del Rosmini, capace di tener conto, come già accennavo, del dato biblico, della fede dogmatica, della tradizione teologica precedente e allo stesso tempo delle sfide poste proprio alla dottrina trinitaria da pensatori del calibro di un Hegel o di uno Schelling, ma anche di dischiudere con coraggio piste nuove e originali. In proposito, mi pare che abbia perfettamente ragione il professor Menke quando sottolinea che è senza fondamento la critica di seconda mano e per nulla appropriata che alcuni teologi trinitari di tutto rispetto, come Auer nel suo Gott der Reine und Dreieine, muovono alla speculazione trinitaria rosminiana. Evidentemente è una critica di seconda mano che non legge a fondo l'originalità di e l'appiattisce, per esempio, su un ripensamento dell'idealismo tedesco, mentre in realtà è tutt'altra la profondità di questa dottrina trinitaria. Direi anzi che il modo con cui il Roveritano affronta l'esposizione e la presentazione speculativa del mistero, e qui abbiamo veramente una speculazione di altissimo livello della Trinità, che diciamo è un, talvolta può essere per noi un po' appunto inattuale dato alla forma più narrativa a cui siamo abituati in questi ultimi decenni a proposito proprio del mistero trinitario. Qui abbiamo una speculazione rigorosamente ontologica del mistero trinitario. Può apparire a un primo sguardo, dicevo, come un semplice sviluppo della prospettiva tomasiana dell'ipsum esse per se subsistens, dall'altro come una riproposizione di quell'interpretazione psicologica che a partire da Agostino è stata la prevalente nella tradizione latina, dall'altro ancora come un tentativo audace di rivedere il tutto nella luce del principio della soggettività assoluta, evidente eco della tradizione della sostanza in soggetto di cui parla Hegel nella Forrede della fenomenologia dello spirito. In realtà, L'originalità di Rosmini, a mio avviso, sta proprio nell'intrapresa di una conciliazione non esteriore o compromissoria, ma intrinseca e obbediente alla struttura di verità della cosa stessa, di questi diversi e persino opposti approcci alla verità trinitaria. Un tentativo, per molti versi, questo almeno il mio giudizio, riuscito. Ebbene, a riprova, e qui vengo a un'attualizzazione, di quanto superficiali possano essere non poche ermeneutiche trinitarie contemporanee che si limitano a contrapporre la visione classica e quella moderna della Trinità, riducendo ad esempio la prima al primato dell'essere sostanza e la seconda a quella del soggetto, senza cogliere la profondità delle istanze speculative che l'una e l'altra, pur nella loro dialettica, insieme propongono a un serio e rigoroso ripensamento. In Rosmini troviamo inoltre anche un tema che senza dubbio, dischiudendosi dalla virtualità stessa della fede trinitaria cristiana, cui egli fedelmente si ispira, come ha splendidamente spiegato prima Padre Tiet, evolve quanto la tematica dell'essere e quella del soggetto rischiano di lasciare nell'ombra, mettendo invece opportunamente a fuoco il tema della Trinità in chiave interpersonale, mostrando così di precorrere tra il resto la sensibilità odierna. Mi riferisco a temi sui quali poi ritornerò, sia pure brevemente, i temi della alterità in Dio, che è di una modernità sorprendente, e sviluppato in chiave agapica. Ma vediamo più da vicino almeno alcune delle coordinate fondamentali che strutturano con grande coerenza interna e in rigoroso riferimento alla fede cristiana, alla verità dell'essere, la dottrina trinitaria di Rosmini. Inizio da una prima prospettiva, quella del ripensamento della linea agostiniano-tomasiana che pone Dio come atto puro d'essere, il cui essere appunto va interpretato secondo l'analogia psicologica dello spirito creato. Intanto c'è da dire che in Agostino, come anche in Tommaso, che rigorizza la prospettiva dell'Ipponate, come hanno notato autorevoli interpreti, penso ad esempio allo studio di Guylain Lafont, Peut-on connaître Dieu en Jésus-Christ, non si giunge né in Agostino né in Tommaso a una vera e propria sistematica connessione speculativa di queste due prospettive, diciamo così, la prospettiva psicologica e la prospettiva più propriamente ontologica. Ed è proprio questo che Rosmini intende realizzare. Intanto c'è da dire che lo fa superando innanzitutto, d'un balzo direi, allo stesso tempo la distinzione che tradizionalmente si è soliti porre, alcune volte anche un po' forzosamente, tra l'approccio più essenzialista dei latini e quello più personalista dei greci. Il fatto è, spiega Rosmini, che l'essenza divina non è realmente distinta da ciascuna persona, di maniera che ella non sarebbe se non fossero le persone. E non è che nelle persone e in tutte e tre simultaneamente è identica, di guisa che sarebbe assurdo il concepirla o in uno o in due e non nell'altra o nelle altre. Questa è una perfetta formulazione del contenuto della verità cristiana sulla Trinità. Resta da mostrare, speculativamente, come ciò sia non solo non contraddittorio, ma sommamente intellegibile. E questo è il compito della teosofia, tanto da spiegare come questa molteplicità reale di persone nel Dio uno, così la definisce Rosmini, sia l'esplicazione ontologica dell'unità divina, nonché di conseguenza l'origine di quell'altra e distinta molteplicità reale che è nel mondo, dice Rosmini, la pluralità degli enti finiti. Ora spiega Rosmini, cito, «L'unica maniera nella quale noi possiamo formarci il concetto di Dio Padre è quello di concepirlo come un atto infinito di intelligenza che, essendo primissimo ed assoluto, è in pari tempo subietto. Quest'atto infinito di intelligenza è l'essere puro. D'altra parte, continua, quest'atto assoluto di intelligenza compitissima che è in pari tempo subietto ha per obiettivo se medesimo essere assoluto. Esiste così un'altra persona che dalla prima ripete l'origine, avente la stessa essenza della prima, che è l'essere assoluto subietto, ma in altro modo, cioè in modo obiettivo per sé manifesto, per sé inteso, avente in sé la vita e la soggettività del primo. Ma, ed eccoci alla terza persona, lo spirito, questo principio non trattiene ferma il suo atto nell'oggetto generato come persona, ma continua in questo e con questo a procedere, ultimandosi. Egli dunque non produce l'oggetto persona come semplicemente intellegibile, ma lo produce insieme come infinitamente amabile ed amato ed amante, e perciò come lo stesso soggetto, ma in un terzo modo, che è quello d'essere amato e amante per sé in atto. A commento di questa robusta esplicazione rosminiana, poche osservazioni che del resto desumo dalle chiose del Rosmini e che ne mostrano l'intrinseca aderenza veritativa alla fede e all'essere, nonché, come dicevo, l'attualità. Innanzitutto c'è da notare come il Roveretano riesca con estremo vigore e destrezza speculativi a spiegare quella che chiamerei la ragione formale per cui la verità dell'unitrinità dell'essere divino ha la sua intrinseca evidenza al di là delle soluzioni accomodanti ma contraddittorie sia del modalismo che del triteismo in tutte le loro forme, antiche e recenti. Da un lato, infatti, l'atto d'essere intellettivo volitivo che il Dio uno s'attua come tale solo nelle tre distinte sussistenze. Ed eccone la ragione, lucidamente individuata ed esposta a proposito del verbo, ma analogo discorso vale per lo spirito. Dice Rosmini: avendo l'atto intellettivo per oggetto se stesso, se questo oggetto dell'intellezione rimanesse solo un termine e ultimo punto dell'intellezione e non sussistesse di sussistenza propria e personale, l'intellezione non sarebbe pienamente intesa. Questo è la pointe della sua affermazione, giacché sussistendo l'essere divino intelligente e non sussistendo la cosa intesa come intesa non sarebbe l'essenza divina, bensì una sua similitudine o idea. Ecco, penso qui di non sbagliare affermando che in questa dinamica di speculazione rosminiana il Roveretano compie il movimento di pensiero che va da Agostino a Tommaso, esplicitando in qual senso l'unico atto d'essere intellettivo volitivo che è Dio debba come tale formalmente sussistere in tre distinte persone. Quindi qui abbiamo, si potrebbe dire, veramente questa congiunzione non solo della linea ontologica e della linea psicologica in modo non esteriore, ma abbiamo anche un ripensamento appunto della visione più classica dell'essere e anche allo stesso tempo di quella più, per dirlo con la formula di Herbert Mühlen, più personologica, moderna. Ecco, Rosmini in questo modo evita anche lo scoglio del triteismo, proprio perché tiene ferma la realtà dell'essere uno di Dio. Ecco, questo è un po' un tema che nell'ultima teologia trinitaria di questi ultimi decenni, o almeno di questi ultimi anni, è andato in parte almeno perduto, mostrando però che questa unità dell'essere che è Dio, se astrattamente va inteso nella presenza, questa era diciamo la prospettiva classica, concretamente va interpretato nell'attualità infinita della soggettività assoluta in quanto atto d'essere attuantesi intellettivamente e volitivamente. Ovviamente, qui è un punto importante, a mio avviso, questa posizione è terminologicamente e contenutisticamente almeno in parte nuova rispetto alla tradizione. Nel senso che Rosmini, tra i concetti di essenza, usia divina, e di persone, ipostasi, divini, introduce la nozione, molto presente nella sua antropologia, del soggetto divino, che è l'atto dell'essenza divina, essendo esso uno nella Trinità delle sue sussistenze personali. Questa è la forza speculativa della sua visione. Evidente qui, mi sembra, bisognerebbe fare delle ricerche filologicamente accurate, ma così a naso direi, la recezione critica di una certa linea dell'idealismo che vede la già richiamata necessità, intrinseca peraltro all'evento stesso della rivelazione cristiana, di ripensare la sostanza nei termini del soggetto, ma evidente allo stesso tempo la fedeltà e l'approfondimento del concetto classico di sussistenza, come qualificante insieme a quello di relazione il concetto di persona indivisa, in divinis. Questo concetto di sussistenza, che è proprio della scolastica, è incognito invece, direi fatalmente, per esempio, all'hegelismo. Occorre dunque, secondo Rosmini, per approfondire la costituzione dell'atto trinitario, che è l'essere del Dio uno, precisare quale distinzione ci sia tra soggetto e persona, e come essi siano in Dio logicamente non solo compossibili, ma ontologicamente co-originari. Rosmini annota proprio questo punto nella Teosofia, dicendo: al che intendere senza che nasca equivoco è necessario aver presente la dottrina della differenza tra il valore della persona soggetto e della parola persona esposta nell'antropologia, da cui apparisce che il subietto divino è comune alle altre persone, sebbene queste siano in sé veramente distinte. Ora, nel luogo dell'antropologia in questione, Rosmini definisce il soggetto come un essere sensitivo, in quanto contiene in sé un supremo principio di sentire, precisando che egli è dunque il sentimento che è necessario al soggetto, trattandosi ovviamente del sentimento secondo la sua più ampia estensione della parola, mentre il concetto di persona designa il soggetto intellettivo-volitivo e pertanto non significa né meramente una sostanza, sottolinea Rosmini, né meramente una relazione, ma una relazione sostanziale, cioè una relazione che si trova nell'intrinseco ordine dell'essere di una sostanza. Ne consegue, dice Rosmini, che se è vero che il soggetto intellettivo e la persona nell'uomo sono una stessa cosa, è altrettanto vero che in Dio non è così. Nella Teosofia, infatti, egli mostra accuratamente come vi è solo una distinzione dialettica, la chiama, in Dio, tra i concetti di essere, atto, subietto, intellezione volitiva. In quanto, dice, l'essenza divina ha ragione di tutto relativamente a tali concetti, che vengono a ricevere la ragione di parti dialettiche formali della medesima. Mentre, in base alla deduzione precedentemente riportata, si deve parlare di una molteplicità in lui essente, che è la trinità delle persone divine. In altre parole, l'essenza divina come atto d'essere è il soggetto divino, le tre persone sussistenti sono le realtà in cui si attua appunto l'unico soggetto. Può sembrare speculativamente fin troppo approfondita questa speculazione del Rosmini, ma la sua importanza qual è? È che egli qui sa riprendere tutta la tradizione e portandola, diciamo così, al massimo grado della sua spinta speculativa, mi riferisco alla teologia trinitaria tradizionale, ma allo stesso tempo sa innovare attraversando, per usare una sua espressione, la pagina del pensiero moderno e idealista, kantiano idealista in particolare, attraversandola. E qui c'è questa, non è un compromesso, è una robusta mediazione speculativa. E tale contributo, mi sembra, qui vengo a un'attualizzazione, tanto più notevole se si tiene conto che oggi, solo tardivamente, in rari casi, si giunge per altre vie a soluzioni che richiamano un po' quella rosminiana. Penso a tre dei più notevoli rappresentanti della teologia trinitaria del nostro secolo, che affrontano la stessa questione del Rosmini, cioè il rapporto tra l'unico soggetto divino e le tre distinte persone, che però non giungono, mi sembra, alla coerenza speculativa di Rosmini. Probabilmente perché non hanno un lavoro di scavo ontologico così profondo come quello del Rosmini, che è filosofo metafisico di tutto rispetto. Mi riferisco per esempio a Karl Barth, alla sua posizione di chiara ispirazione hegeliana, l'ha notato Pannenberg in un suo studio magistrale in proposito, di un unico soggetto che si rivela in tre distinti Seinsweisen, riprendendo la terminologia classica già dei padri greci. E giustamente Casper fa vedere come questa posizione di Barthes facilmente cada nel modalismo, perché manca una ontologia dell'essere uno di Dio, o all'analoga impostazione in prospettiva trascendentale di Rahner, nel Mysterium Salutis. In campo ortodosso, molto interessante la posizione del grande Sergei Bulgakov, che anche lui parla d'un unico soggetto triipostatico. Si potrebbe anche affrontare in proposito la posizione stessa personale di Pannenberg su questo tema. La novità di Rosmini rispetto a questi tentativi del nostro secolo, direi la sua genialità precorritrice, perché a questo livello di profondità speculativa non conosco altre cose proprio formalmente riguardanti il mistero trinitario in questa visione dogmaticamente tradizionale in realtà, no? Che vuole rimanere fedele alle viscere della rivelazione cristiana. Ecco, la sua novità sta in questo, che egli può affermare con cognizione di causa, dopo aver sviluppato questa deduzione che ho sintetizzato, cito, che i due termini, figlio e spirito, procedenti dal principio il padre, rimangono nel principio, ma nello stesso tempo sussistono in se stessi per le loro proprie personali coscienze, per le quali l'uno di essi sa di essere generato, l'altro sa di essere spirato, mentre il principio ha, notate l'espressione, la coscienza personale di essere principio generante e spirante insieme al suo generato. Affermazione notevole se pensiamo che oltre un secolo dopo, Karl Rahner, nel Mysterium Salutis, si vede ancora costretto ad affermare, qui si sente la sua, nonostante diciamo la svolta trascendentale, la svolta antropologica, si sente il suo radicamento nella ontologia classica, ad affermare che in Dio c'è una sola essenza e dunque una sola coscienza, come era nell'impostazione classica, anche se poi Rahner stesso tempera la sua affermazione rifacendosi a Lonergan, che ha delle espressioni molto importanti su questo aspetto. Vengo rapidamente a una seconda prospettiva, che mi sembra complementare a quest'altra. Questa è già di tutto rispetto speculativo e con grosse conseguenze per il ripensamento odierno. Ce n'è un'altra, mi pare, complementare, altrettanto importante. Rosmini, sempre nella Teosofia, ma la possiamo trovare espressa in modo più frammentario in altri luoghi, afferma che l'essere assoluto, proprio in base alla visione prima presentata, è per sé comunicantesi, il che significa, cito, che la natura divina inchiude necessariamente il concetto di un eterno dare se stesso in quei due modi che si chiamano, con vocaboli consacrati, generazione e spirazione. L'atto d'essere intellettivo volitivo, direi, che è Dio, è per sé, sono parole di Rosmini, atto del dare, atto di dare. Ecco, in questa affermazione, che poi svilupperò con due battute riferendomi ai testi rosminiani, è evidente innanzitutto una deduzione speculativa dal concetto di essere divino che lui trae evidentemente dalla rivelazione, ma è altrettanto chiaro che qui c'è un'attenzione al più proprio della rivelazione cristologica, vale a dire l'evento di Cristo e diciamo l'evento pasquale, l'evento della croce e della resurrezione, come evento del paradidonai, del consegnare, del dare, in cui il padre dà il figlio e insieme a lui dà lo spirito, il figlio dà se stesso sulla croce. Un movimento che la testimonianza biblica condensa nel pregnante e sintetico concetto di agape, la carità rosminiana, anche qui un concetto centrale. Dio, afferma Rosmini, è carità per essenza, dare per essenza. Carità avanti la creatura, carità rivelata, carità trasfusa e glorificata nella creatura. Allo stesso tempo Rosmini, mi sembra, valorizzando questa prospettiva biblica, In sintonia con la visione personalistica che caratterizza la sua antropologia, anche sul versante della Trinità divina recupera una linea di approfondimento del mistero che, per distinguerla da quella prevalente nella tradizione occidentale, designata come intrapersonale, come psicologica, si conviene di definire interpersonale. Il dare apre e dischiude questa ermeneutica. È l'interpretazione agapica dell'essere di Dio proposta pur timidamente, lo sappiamo, da Sant'Agostino, a partire dalla prima lettera di Giovanni nell'ottavo libro del De Trinitate, ma non sviluppata da Agostino stesso a favore appunto di quella psicologica, per i motivi che Agostino spiega e che non sono motivi speculativi. E Rosmini invece, per motivi speculativi, la sviluppa. Dice Agostino, è interessante fare un parallelo tra queste due visioni agapiche della Trinità. Dice Agostino, nel libro quindicesimo del De Trinitate, dove riassume un po' il suo cammino precedente: quando si giunse alla carità, che è stata chiamata Dio nelle Sacre Scritture, il mistero si chiarì un poco con la dottrina, con la Trinità dell'amante, dell'amato e dell'amore. Ma poiché, ecco il motivo, quella luce ineffabile abbagliava il nostro sguardo e poiché avvertivamo che la debolezza del nostro spirito non poteva ancora raggiungerla, ci siamo rivolti allo spirito trovandovi un oggetto di studio più a noi familiare per riposare la nostra attenzione affaticata. Ecco, questo riposo è durato per alcuni secoli dopo Agostino. Il problema fondamentale, l'ha sottolineato molto bene von Balthasar, e anche padre Tiet più volte mi sembra l'ha puntualizzato egregiamente, sta nel fatto che l'ontologia greca non offriva una comprensione adeguata dell'essere in generale, dell'essere umano personale, nella sua radicale intersoggettività, interpersonalità, tale da recepire e da esprimere la novità della rivelazione biblica, sia a livello antropologico che a livello propriamente teologico trinitario. Di qui deriva la fatica di Agostino, la fatica speculativa e la necessità di riposo. Tant'è che dopo la spinta iniziale di Agostino bisogna arrivare, come noto, al De Trinitate di Riccardo di San Vittore per trovare un tentativo di evolvere in prospettiva trinitaria di analogia amoris l'interpersonalità divina. Oggi è vero, si sono moltiplicati, anche a partire dal confronto con l'idealismo tedesco, con il pensiero dialogico, con il pensiero personalista dell'alterità, i saggi di interpretazione del mistero trinitario in questa chiave. Essi spesso però, mi sembra, hanno buona intenzione, ma sono carenti sotto il profilo ontologico. Pensate a tutta la linea del pensare Dio e la Trinità in definitiva sans lettre, no, che è diventata una linea importante. Rosmini è certamente inattuale. Rosmini pensa Dio come agape a partir de l'être, non sans l'être. Ecco, e offre, mi sembra, una pista di riflessione in questo campo che in qualche modo, mi sembra, sarebbe da approfondire, sono spunti che do, rende immune la sua proposta dagli strali, peraltro molte volte ben meritati in rapporto a certe contraffazioni sclerotizzate della metafisica classica, che vengono alla teologia trinitaria o la visione dell'essere dalla critica moderna all'ontoteologia. In quel senso, secondo il roveretano, la natura divina è tale, ritorno al concetto di prima centrale, da includere necessariamente il concetto di un eterno dare se stesso. In questo senso, dice Rosmini, che la prima persona della Santissima Trinità dà e ha sempre dato tutto alla seconda, il qual atto di dare è ella stessa. Onde ella stessa non sarebbe se non desse e avesse sempre dato tutto alla seconda. È un ripensamento, lo rivia in nota, il concetto, che peraltro è più statico, non giunge a questa profondità dinamica, che a San Tommaso della relatio subsistens. Ne deriva, e cito questa bellissima espressione di Rosmini, che meriterebbe essa sola tutto un approfondimento, ne deriva che l'atto del principio fontale della Divina Trinità è un atto che tende sempre in un altro, e quest'altro è altro, l'ha sempre ab eterno raggiunto e promanato, onde, In questa costituzione della Divina Trinità, nell'operazione del principio, si distinguono logicamente, non realmente, due note o condizioni. Primo, un dare tutto ad altri. Secondo, un ritenere tutto, ossia un mettere tutto in atto in sé medesimo, di maniera che l'essenza divina che è nel principio e che viene comunicata è messa in atto per lo stesso atto per quale sono messe in atto le divine persone distinte realmente tra loro. E questa è, a mio avviso, una pagina stupenda, è una pagina stupenda, ricchissima e geniale certamente, perché è una espressione speculativa di questo movimento del dare scaturente dalle viscere dell'essere, per dire la prospettiva rosminiana. Una domanda verrebbe dall'aver visto queste due linee in fondo che ho cercato di mostrarvi, una domanda legittima alla quale già accennava prima Padre Tiet, e quindi la dico solamente per dovere di completezza, sarebbe questa. Già la poneva sul versante più filosofico Pietro Prini, chiedendosi se in fondo la teosofia, la visione di Dio del Roveretano, non abbia sviluppato la riflessione su ciò che Hegel chiama l'immane potenza del negativo. E sul versante teologico la potremmo ripetere noi oggi in riferimento al rapporto tra rivelazione trinitaria e evento pasquale, che è certamente una delle caratteristiche fondamentali del nostro tempo. Rispondo con due annotazioni. Primo, già citava Padre Tiet Lorizio, il suo studio sulla ipotesi e testi per una teologia crucis rosminiana, mi pare si può dire che dai testi del Roveretano c'è materia sufficiente per cavare una linea di teologia crucis. Tra l'altro sono testi molto interessanti dove si vede che egli misticamente, ma anche speculativamente, ha centrato la pregnanza non solamente soteriologica, ma rivelativa della croce. Altra osservazione, nella prospettiva propriamente teosofica in cui lui si pone, lo diceva Padre Triete, è una, come la sua cristologia, così anche la sua dottrina trinitaria, certamente dall'alto. Nella sua prospettiva però è evidente che il dato storico salvifico della distinzione trinitaria, rivelata al massimo dalla croce, penso ad esempio a Schelling nella sua filosofia della rivelazione, si riflette, anche se non è tematizzata materialmente, si riflette però ontologicamente in concetti come quelli della realissima alterità. È forte questo concetto dell'alterità in Dio. E dall'altra parte in questo dinamismo del dare come costitutivo dell'essere di Dio e dunque del suo sussistere in tre termini personali. Col pregio di riuscire al contempo a pensare l'unità che non solo si mantiene, ma si esprime in tale distinzione di cui non è possibile, per dirla con Mühlen, pensare la maggiore. Cosa che, ritorno un po' a un refrain delle mie considerazioni, non è così presente nella riflessione teologica contemporanea. Avviandomi alla conclusione, mi limito a un'annotazione che mi sembra può dischiudere, e poi sarà tema, ho visto, di altre relazioni, può dischiudere la fecondità di questa visione trinitaria del Rosmini per l'insieme della teologia cristiana. Mi riferisco a due temi molto presenti in tutta la sua riflessione. Il tema protologico della processione per creazione delle realtà finite a Dio, da Dio, e a quello escatologico del Dio tutto in tutte le cose. Sono due temi ricorrenti in lui. Ecco, qui mi sembra che basta, tant'è che nella teosofia Rosmini introduce appunto la riflessione trinitaria proprio per spiegare in che senso Dio, solo Dio Trinità, può essere compreso come causa e origine degli enti finiti, quindi questa rilevanza protologica del tema trinitario. Ecco, basta qui sottolineare, mi sembra, come Rosmini da un lato riprende la linea classica sia dei greci che dei latini, Massimo il Confessore, Agostino, Tommaso, Bonaventura, delle idee divine. Anche qui un tema incognito, dimenticato nella teologia trinitaria contemporanea, e quello altrettanto classico, soprattutto di Tommaso, ma anche di Bonaventura, delle processioni intratrinitarie come ratio et causa della creazione. Ma riprende questo tema rigorizzandolo, questo è sempre il suo, mi sembra il suo metodo speculativo, e sciogliendo alcuni nodi irrisolti e alla fine contraddittori che rimangono in queste due dottrine. Penso ad esempio all'idea, alla prospettiva, alla dottrina delle idee divine. La dottrina delle idee divine, come giustamente ha messo in rilievo, penso ad esempio, Sergei Bulgakov, nella sua opera ecclesiologico-trinitaria, le idee divine rischiano di essere nella tradizione cristiana un residuo di platonismo che difficilmente si concorda con il concetto di creazione e poi con la realtà dell'incarnazione, eccetera. Rosmini critica Tommaso su questo punto, con grande libertà e con grande acutezza, allo stesso tempo facendo emergere il positivo perenne che c'è in questa prospettiva, e sostiene questo. Questa linea, che è poiché Dio è essere uno e trino per la sua essenza intellettiva volutiva, che può uscire di sé, pensare e volere tanto se stesso quanto enti finiti. Il suo apporto originale mi sembra questo, in base alla sua visione trinitaria, che egli vuole questi enti finiti tanto in sé che fuori di sé, in analogia alla sussistenza delle tre divine persone che sono in Dio e allo stesso tempo sono distinte. Questa è una proiezione creata. Proprio in quanto gli enti finiti sono posti creativamente da lui appunto come finiti e come tali da lui distinti. Ecco, questa è una linea, a mio avviso, fecondissima per riprendere, superando il residuo platonico, questa linea tradizionale. Per quanto riguarda l'escatologia, farei questa osservazione, che è solo questa rigorosa esplicazione della ragione ontologica che lega indissolubilmente la protologia dell'essere creato all'essere di Dio uno e trino, ciò che rende perfettamente possibile e reale, per la mediazione di Cristo e della libertà della persona umana in sinergia con la grazia divina, l'escaton trinitario. Dio in tutte le cose. È speculativamente possibile, e diciamolo pure anche necessario, solo in base a questa protologia fondata su questa visione trinitaria. Cito per concludere due affermazioni di Rosmini che sono dense e potrebbero e possono confermare questa affermazione. Dice Rosmini: la cristiana sapienza insegna, ed è un po' la sintesi di quanto diceva padre Tiet, che il verbo di Dio, l'oggetto, persona sussistente, assunse l'umanità e come uomo si chiamò Gesù Cristo. Che gli uomini vengono a Cristo congiunti con dei vincoli sacramentali potentissimi e misteriosissimi, quali membra che stanno congiunte al capo, che quindi e possono e devono a queste congiunzioni intime aggiungere altresì quella di una volontaria in oggettivazione, questa straordinaria dottrina della inoggettivazione. E inoggettivandosi in Cristo, come uomo, si trovano con ciò stesso raggiunti al Verbo, essendo Cristo, quale uomo santissimo, indivisibilmente e personalmente congiunto a Dio, quale seconda persona che rivela Dio, che rivela il Padre in sé e spira col Padre lo Spirito. È così allora che si realizza quella che Rosmini chiama l'unione di tutti in Dio, l'unione trinitaria, per la quale, dice, cito testualmente, rende se stesso omnia in omnibus, alla quale unione pervenuto, e questa è una conclusione misticamente ricca anche per noi, alla quale unione pervenuto l'uomo, ricercando ogni parte di sé medesimo, non ritroverà in sé fibra, né movimento, né facoltà, né atto, dove non viva e non regni Dio, cioè la carità per sé sussistente che lo divinizza. Grazie. Grazie vivissime, professore, che ci ha impegnati e avvinti in un tema così alto, altissimo di teologia, il vertice, possiamo dire, sulla Trinità, con citazioni di Rosmini tanto avvincenti, tanto interessanti, di una inattualità attuale, come lei ha ben detto, la prospettiva che ci ha presentato, e ci ha portati quasi anche a immedesimarci con la meditazione di Rosmini, che fu il vertice della sua meditazione speculativa degli ultimi anni della sua vita, del grande testo della teosofia sul quale meditò questi grandi temi della Trinità proprio negli ultimi anche giorni, possiamo dire, della sua vita prima di morire nel 1855. Grazie vivissimo, professore.